Ciao a tutti carissimi ascoltatori di Radio Big World e benvenuti in questa nuova puntata dei Monologhi Esteriori. Io sono Elisa Elena Carollo, la vostra aspirante attrice di fiducia, e anche oggi sono qui per parlarvi di un monologo? Sì, teoricamente questa trasmissione si dovrebbe chiamare I Monologhi Esteriori. Il problema è che ultimamente trovo così tante cose belle da recitare che non si tratta più solo di monologhi teatrali. L'avevo già fatto una volta di dedicarmi alla poesia, con una poesia di Pascoli dedicata all'autunno. Questa volta lo rifaccio, perché l'8 febbraio è il compleanno di una persona speciale, che è nata ben 130 anni fa. L'8 febbraio del 1888 è nato Giuseppe Ungaretti, poeta famoso per essere l'autore della poesia preferita di tutti gli studenti italiani. Ma non soltanto per questo, perché ok, scriveva delle poesie corte e facili da imparare a memoria, però sono delle poesie corte estremamente vive. Io ho sempre trovato molto molto affascinante il modo che aveva di creare queste immagini in due parole, e ci sono anche tantissimi altri bravi poeti che sanno creare delle belle immagini, ma Ungaretti è sempre riuscito veramente a folgorarmi. In pochissime parole creava un mondo. Quindi per questo ho pensato che potrei celebrare il suo compleanno leggendovi qualcuna delle sue poesie. Anzi, narrandovele, perché sono un'attrice e quindi non leggo le cose così come si leggono le poesie in classe seguendo la metrica. Ve le narro, ve le racconto come si racconta una storia ad un pubblico. Almeno questo è quello che cercherò di fare. E dato che si tratta di poesie comunque abbastanza brevi, ho deciso di sceglierne qualcuna, iniziando da I giorni e le notti. I giorni e le notti suonano in questi miei nervi d'arpa. Vivo di questa gioia ammalata d'universo e soffro per non saperla accendere nelle mie parole. Poi la seconda che ho scelto si chiama Eternità e trovo estremamente bello che una poesia dedicata all'eternità sia composta da soli due versi. Forse perché l'eternità è così ineffabile che comunque cercare di spendere troppe parole sarebbe stato inutile. Tra un fiore colto e l'altro donato, l'inesprimibile nulla. Queste poesie mi ricordano tantissimo dei dipinti che in due pennellate riescono a dipingere una scena che si vede colorata, chiara e vivida. Oppure uno schizzo fatto in pochi secondi che però riesce a dare l'idea di quello che l'artista voleva comunicare. Questa, ad esempio, si intitola Casa mia e in cinque versi riesce ad esprimere veramente il concetto di che cosa sia la casa. Sorpresa dopo tanto d'un amore. Credevo di averlo sparpagliato per il mondo. La prossima invece è un po' più lunga, si intitola Sereno e la vedo come se fosse un acquerello che in qualche pennellata, qualche goccia di colore, riesce a tratteggiare un paesaggio di una notte stellata. Dopo tanta nebbia, a una si svelano le stelle. Respiro il fresco che mi lascia il colore del cielo. Mi riconosco, immagine passeggera, presa in giro, immortale. E l'ultima che vi voglio leggere è dedicata alle stelle, queste lucine che vediamo nel cielo di notte e che ci fanno sempre sognare e fare pensieri romantici, profondi e misteriosi sull'immensità dell'universo. Tornano in alto ad ardere le favole. Cadranno con le foglie al primo vento, ma venga un altro soffio, ritornerà scintillamento nuovo. Ecco, devo dire che questa volta non mi sono scelta un compito per niente facile, perché le poesie in generale non sono facili da recitare e queste, che sono brevi, incisive, fulminee come un flash, sono ancora più difficili da raccontare in modo che arrivi veramente l'emozione. Spero comunque di essere riuscita a rendere un pochino giustizia alla grandezza di questo poeta. Questa puntata è più breve del solito, però credo di avervi dato la dimostrazione che a volte non servono tante parole, bastano le parole giuste. È difficile trovarle, però una volta trovate sono più efficaci di discorsi lunghi ore e ore. Spero comunque di avervi fatto passare qualche minuto piacevole di ascolto. Se volete seguirmi anche la settimana prossima, vi aspetto sempre qui su Radio Big World. Ciao a tutti!